State un po', pure oggi i fuori posto. I fuori posto di Umberto Alezio e Filippo Roma. Allora, buongiorno dai fuori posto, partiamo subito perché oggi abbiamo una puntata densa di argomenti e interviste molto interessanti. Aspetta, succede? Dobbiamo partire, abbiamo interviste esclusive, fondamentali, importanti. Ma ce lo chiedono gli ascoltatori. Ma cosa? Vabbè, perché abbiamo fatto i fuori posto? Per trovare un posto di lavoro. Sì, per trovare un posto di lavoro. Però anche per un mio scopo personale, no? Ah, io ho capito dove vuoi parare. L'abbiamo sempre fatto, mo che lo facciamo? Siamo arrivati... Beh, io oggi volevo evitare, pensa un po'. Dai, vedi Andrea. Intanto Andrea, a me dalla parte tua. Fuori amore. She may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price. Vabbè, quindi... E quindi niente, io potrei parlare per almeno un quarto d'ora, 20 minuti, guarda, della mia ex? Ti do 30 secondi. Così poco? Sì, hai rotto. No, perché secondi. Ieri mi era venuta la malinconia. Ieri ero in hotel, sul letto da solo, un po' triste. Che immagine. E ho scadente. Pensato al primo bacio, no? A quando uno dà il primo bacio. Ah, è vero, quel famoso primo bacio. Sì. Lei aveva delle ballerine color argento. Ecco, ricordiamo che Umberto Alezio è un maniaco delle ballerine. Quindi, donne che indossate ballerine, state alla larga da Umberto Alezio. Ma un maniaco, cioè, mi piacciono le donne che indossano le ballerine. Che male c'è? Se vede una donna con le ballerine, gli salta addosso. Beh, non è vero. Io potrei saltare addosso, anzi, non più adesso perché mi blocco. Se dovessi vederla, mi blocco. Potrei saltare addosso solo alla mia ex. Ma, e lei mi denuncerebbe. Certo, giustamente. Mi hai incuriosito, ma il primo bacio dove è avvenuto? È avvenuto in una cucina. No, perché io mi emoziono veramente, no? Sì, sì. Scusatelo, perché sono momenti per lui molto. Ecco, poi lui infierisce con la musica. Vabbè, no, è avvenuto in una cucina. Lei era venuta a casa mia a un certo punto, quasi rischiando la denuncia per violenza, l'ho girata, lei era distratta, l'ho girata e ci siamo baciati. Ecco, e aveva le ballerine. È chiaro, era veramente distratta per averti baciato. Era distratta, sì, l'avevo fatta un po' bere. No, scherzo, sì. E lei, incredibilmente, io mi aspettavo uno schiaffo, c'è stata. Quindi il primo bacio di Umberto Alezio con la sua ex, ricordiamolo, è avvenuto in una cucina. Il vostro per primo... ora ex, per ora ex. È vero, perché dai, metti una buona parola, mettete anche voi una buona parola per convincerla. Allora, mettete una buona parola, se non altro per toglierci dalle scatole questo argomento che è diventato così tedioso. Scusa, allora... forse non l'hanno capito, ma perché io faccio questo fuori amore? Spiegalo a casa. Allora, lo sanno ormai tutti quanti. Comunque, lo ricordiamo, Umberto Alezio sta soffrendo perché è stato lasciato dalla sua donna, di cui era molto innamorato, sono stati insieme alcuni anni. Tuttora innamorato, forse lei purtroppo non più. Sono stati insieme un po' di anni e poi a un certo punto lei, giustamente, sottolineo, ha deciso di mollarlo, di lasciarlo per strada. Bell'amico. E lui, che ovviamente, collega, sta soffrendo come una bestia. Però parlavamo del primo bacio. Se volete raccontarci il vostro primo bacio, scriveteci ai fuoriposto@radio24.it, lasciate un messaggio in segreteria allo 02 46 52 41 82, oppure mandateci un sms o whatsapp al 349 238 6666, oppure sulla nostra pagina Facebook ufficiale I Fuori Posto, dove trovate foto di Filippo nudo, foto di Filippo con la camicia bagnata, insomma, trovate di tutto, foto molto eccitanti. Umberto, oggi parliamo di caporalato, no? Che è quella terribile forma di sfruttamento della manodopera agricola che è sempre più diffusa in tutta Italia, da sud a nord, no? Ci sono questi caporali che ingaggiano la forza lavoro e la offrono alle aziende agricole, ma questi lavoratori vengono pagati pochissimo, non hanno alcun contratto, non hanno alcuna garanzia salariale, previdenziale, assicurativa e spesso purtroppo subiscono anche maltrattamenti e minacce dai datori di lavoro. Sì, diciamo che, caro Filippo, è una vera e propria forma di schiavitù moderna, no? Sì, e i dati sono veramente angosciosi perché oggi come oggi in Italia risultano ben 400.000 lavoratori sotto caporalato. Addirittura? Sì. Ricordiamo poi a chi ci ascolta che sono proprio questi i mesi, no? Della raccolta dei pomodori, delle pesche, delle ciliegie, no? E quindi sono proprio questi i mesi dove tantissime persone soffrono e sono sfruttate e vivono questo dramma, no? Sì, e per fortuna oggi abbiamo la possibilità di ascoltare, Umberto, qualcuno che ha vissuto questo sfruttamento sulla propria pelle. Lei si chiama Francesca, è un nome di fantasia. Per fortuna Francesca oggi è riuscita a denunciare e a uscire da questa piaga, ma tuttora, nonostante siano passati diversi anni, ha paura dei suoi ex caporali. Giusto, Francesca? Giustissimo. Allora, cara Francesca, intanto grazie di essere qui e grazie a voi e grazie per la testimonianza che ci stai per dare. E tu per quanti anni sei stata trattata come una schiava nelle terre pugliesi, giusto? Sì, nelle terre pugliesi. Allora, diciamo che io per 20 anni, quest'anno invece è cambiato tutto. Dopo gli episodi del scorso anno, quest'anno finalmente abbiamo avuto una boccata di ossigeno anche noi. Ricordiamo, Filippo, per chi ci ascolta a casa, che lo scorso anno, proprio in questo periodo, è morta una donna proprio perché viveva delle condizioni di estrema schiavitù e è morta di crepacuore perché è stata lasciata sola in una terra a raccogliere dall'alba a notte fonda dei frutti. Giusto, Francesca? Giusto. E anche tu lavoravi in queste condizioni brutali? Eh sì, ma tutte in Puglia lavoriamo così. È difficile trovare aziende dove lavori, hai un lavoro dignitoso. Quante ore al giorno tu lavoravi? Allora, sul contratto c'è scritto 7 ore, però ne facevamo ovviamente di più. Cioè quante? Molte di più. Io sono arrivata a fare 7 ore più 5-6 ore di straordinario. Quindi lavoravi quasi 15 ore al giorno? 15 ore, sì. E quanto ti pagavano per lavorare quasi 15 ore al giorno? Della raccolta dell'uva alle 40, altrimenti poi quando andavamo alla Cinino 28. Ma tu avevi un regolare contratto? O eri pagato in nero? Regolare contratto, diciamo, regolare. Tanto regolare non era. Perché non era tanto regolare? È perché sul contratto c'è scritto 6 ore e 40, invece noi ne facevamo molto di più. Scusa, quali erano le condizioni disumane? Le condizioni, ci sono aziende in cui i caporali ci stanno dietro, oppure, cioè, nel senso che non puoi andare al bagno, puoi andare una volta, o ti dicono magari non puoi mangiare, il panino lo devi mangiare di nascosto. Addirittura? Cioè, sì. Cioè, neanche una pausa pranzo, neanche il momento di fucillarsi? No, se facevamo la pausa pranzo, pranzo, il caffè 10 minuti, poi lo scontavamo, no? E questi caporali erano anche aggressivi nei vostri confronti? Sì. Che ti dicevano? Da domani, se non lavori bene, da domani non ti faccio venire, oppure da domani tu non vieni più, non parlate, non fate molto casino. Non puoi parlare una con l'altra, devi lavorare e basta. Ah, tra di voi non potevate parlare? No. Francesca, qual è il ricordo più brutto di questa terribile esperienza che hai avuto? Il ricordo più brutto è passare tante ore nei pullman per trovare, cioè sembra la strada della speranza. Infatti noi le chiamiamo il viaggio della speranza, cioè tu non arrivi mai, allora quando arrivi, che so, in un paese che conosci, dici, sono arrivata quasi, sono arrivata. È il viaggio della speranza. E tu la sera a che ora andavi a dormire? Arrivavo a casa alle 9, alle 10, alla sera alle 11, perché tu una che è sposata deve preparare per la mattina, per i bambini, e poi arrivi a casa e hai una casa da mantenere, quindi le 11, le 12. E la mattina a che ora andavi a lavorare? Alle 3. Alle 3 del mattino? Alle 3 del mattino. Questo per quasi 40 euro al giorno, no? Solo il periodo dell'uva, le 40 euro, altrimenti erano 28 euro. Senti, e come avveniva l'ingaggio da parte dei caporali? Cioè come ti contattavano e come trattavate poi il tuo compenso? Io quest'anno fortunatamente ho trovato un'azienda seria, però tuttora ci sono i caporali che dicono magari vuoi venire a lavorare, e ti prendono e loro passano, ti prendono e ti portano nelle terre. E tu adesso hai amiche che sono tuttora sfruttate? Allora, sempre riferendomi all'anno scorso, sì, però non ne parlano. Cioè, anziché di andare avanti, di parlare di questa esperienza, le amiche si sono chiuse perché hanno tutte paura. Cioè, non denunciano? Non denunciano, non parlano neanche, non parliamo neanche più tra di noi delle esperienze del caporalato. Non si parla più. Senti, è tipo le autorità del posto, non fanno controlli, non vengono a sorpresa? No, è per quello che io ho voluto proprio parlare, perché non c'è, l'ispettorato non esiste più, cioè l'anno scorso veniva l'ispettorato del lavoro, nelle campagne non è venuto mai, almeno come mia esperienza non è venuto mai. Magari ci fermavano con gli autobus, ci fermavano e facevano i rispettivi controlli. Però i controlli loro che fanno? I controlli ti domandano dove c'è il caporale, cioè il caporale nostro è 10 centimetri dalle spalle nostre, e queste domandavano quanto prendi al giorno. Ovviamente una donna non è che può dire, senta, io prendo 28, dicevo 40, come voleva il caporale. E i lavoratori come erano composti? Eravate tutti italiani o anche stranieri? No, guardi, eravamo tutti italiani, i veri sfruttati sono le persone italiane, non le persone straniere, siamo noi italiani. La cosa che poi ti dicono, se non vieni tu, io metto il rumeno, cioè non vieni tu a 28, metto il rumeno a 20 e li pago a 20. Quindi una sorta di guerra tra poveri. Eh sì. Francesca... L'unica cosa che chiedo, mi scusi, è qualche controllino in più. Non per me, perché quest'anno io forse ho trovato la mia strada, no? Però per le altre donne qualche controllino in più ci dovrebbe essere. Ecco, raccogliamo questo appello di sì. Francesca e lo giriamo direttamente alle autorità. Grazie Francesca, grazie per la tua testimonianza. Grazie a voi. Ciao. Grazie mille davvero e speriamo che come si è risolto il caso di Francesca, no? Si possono risolvere tanti altri casi. Certo. Ora, Francesca, Filippo ci ha detto che lavorava in gruppi di quasi solo italiani, no? Ma in realtà questo fenomeno colpisce, proprio come diceva Francesca, anche lavoratori stranieri, no? Beh sì, sempre i dati dicono che il 60% di questi lavoratori sono proprio stranieri, sono immigrati. Sì, gran parte rumeni. Sì. E a tal proposito abbiamo in linea un'altra ragazza che ha vissuto sulla propria pelle questo dramma. Lei si chiama Clementina ed è rumena. Ciao Clementina, buongiorno. Ci sei? Sì. Tu di dove sei? Io sono da Romania. E da quanti anni è che vivi in Italia? Da 9 anni. E per anni sei stata sfruttata, no? Dovevi raccogliere le ciliegie, giusto? Sì, pure. 3 anni ho lavorato sotto le serre, in 3 anni ho avuto 20 giornate messe e ho lavorato ogni giorno. Dopo ho iniziato a lavorare con un'azienda agricola a 40 chilometri da dove abitavo prima. Ti portavano con le macchine caporali, persone rumeni. Se iniziavi a chiedere diritti o dire qualcosa che non gli piaceva, ti lasciavano a casa. E quanto ti pagavano al giorno? 3,75 all'ora. 3,75 euro? Sì. Ti facevano lavorare 14, 15, 16 ore, pure di domenica, quando era il tempo delle ciliegie, da maggio, giugno. Cioè, lavoravi 16 ore al giorno? Sì, con una ora di stacco. E quali erano le condizioni di lavoro? Lavoravi, cosa ti mettevano di fare? Non avevi una mansione precisa, ti mandavano fuori, raccoglievi, poi entravi dentro, e sempre sotto stress. Non ti lasciavano neanche andare in bagno tranquillo, venivano dopo di te, cose che neanche non pensavo che si possono passare. Subivi anche, tipo, come dire, avance sessuali? No, questo no. Gridavano. Cioè ti urlavano? Sì. E poi io, il primo anno mi hanno fatto il contratto determinato, non capivo neanche, adesso non so sicuro come vanno i leggi, non li conosco. Mi hanno fatto la disoccupazione agricola, sul contratto mi hanno messo l'indirizzo sbagliato, tutto il cartaggio, cosa mi doveva arrivare dall'INPS o da altra parte, arrivava in azienda. Senti, tu ti sentivi come una schiava? Sì, certamente, perché lavorare tante ore non sei pagata, non sono pagati straordinari, poi ti trattavano davvero male. E cos'è che ti... E poi alla fine sono arrivata e ho denunciato all'ispettorato, adesso dovrebbe essere il processo, ma non ti aiuta nessuno, non sei tutelato. Senti, Ci spieghi bene come funziona il caporalato, cioè le persone che stanno sopra di te, no? Innanzitutto quanto si prendono? Questo non posso dirvi, perché con altri non parlano. Loro hanno accordi con il datore di lavoro e se inizi a chiedere diritti ti lasciano a casa. Cioè cosa ti rispondono? Cosa ti dicevano a te quando chiedevi di essere messa in regola? No, hanno iniziato il mobbing. Cioè in che modo ti mobbizzavano? Gridavano, poi io aprivo 14 ore casse, dovevo tirare queste pedane pesanti. Mettevano altri rumeni di far capotare queste pedane, potevano cadere su di me se non stavo attenta. Cose terribili. Praticamente, in che regione lavoravi? In che parte d'Italia raccoglievi le ciliegie? Campagna. Come arrivavi alla fine di una giornata di lavoro? Come arrivavi a casa? Come ti sentivi? Come sentivo quando arrivi alle 11, pure di 12, mezzanotte a casa, non riesci neanche a mangiare, sei così stanco. Ti devi lavare, devi fare... Abbiamo fatto sacrifici tutta la famiglia, mia figlia e mio compagno. Lei faceva a volte pure da mangiare, fare le spese. Come pensate voi, come si può vivere così? Oh, ma tu hai mai pensato di andare a denunciare ai sindacati o alle istituzioni questa forma di sfruttamento nei tuoi confronti? Sì, per il primo anno quando... Non sono venuti, non sono arrivati neanche la disoccupazione agricola per l'inverno. Mi hanno detto che non posso fare niente, solo fare la disoccupazione per le poche giornate che hanno messo loro. Dopo ho cambiato, diciamo, città, perché qua era una città più piccola, dove... sono tanti stranieri, senza residenza, non fa nessuno controlli. Io neanche non capisco come... Poi con queste macchine, quando vai al lavoro, sono fermate dai carabinieri. Sì. E non lo so come fanno i controlli, perché dopo questa azienda dà un telefono e è tutto risolto. Quindi, diciamo, i carabinieri facevano i controlli, però poi... misteriosamente non succedeva nulla, cioè era come se tutto risolto. No, io ho denunciato all'ispettorato, adesso tramite un altro CDL, e mi hanno portato all'ispettorato a fare conciliazione, dove questo funzionario mi ha detto che non mi ha messo nessuno la pistola alla testa. Ah, addirittura? Sono rimasta scioccata proprio, per 3 anni e mezzo sono stata una schiava, questo è schiavagismo moderno, questo è... Quali sono state le forme di maltrattamento, cioè, da parte dei tuoi datori di lavoro, di cui ci parlavi prima, più brutte, che ti sono rimaste proprio? Sono stata minacciata dal figlio, se avessi un coltello ti butto giù perché io lavoravo sopra. Quindi sei stata minacciata dal figlio del tuo datore di lavoro, minacce di morte, sì. Mi pare di capire. Sì, può intendersi anche così. E perché ti ha minacciato? Per quale motivo? O per farmi spaventare, perché andavo all'INPS, facevo domande. Chiedevi troppo? Io ho avuto fortuna, forse, che ho riuscito di imparare meglio la lingua italiana, perché gli altri sono tante persone, così li cercano, chi non sa parlare, non li possono spaventare, non ce l'hanno nessuno. Io sono riuscita a parlare meglio, sono andata lì, sono andata in tanti posti a chiedere, a domandare, avevo fatto domande. E loro hanno iniziato con questo mobbing, minacciarmi. Prima non ho capito qual è il motivo, perché io ho lavorato, comunque lavoravi come una pazza, quasi 16 ore. Ma mentre lavoravi, no? C'era qualcuno che vi controllava per verificare che voi lavoraste a pieno ritmo, cioè c'era qualcuno che vi controllava mentre lavoravate? Era il figlio del datore, poi c'erano sì pure 3-4 persone italiane. Poi cosa faceva ancora una cosa brutta, che la moglie del datore di lavoro portava il caffè, dava solo a 5 signore italiane, e stranieri erano non gli dava niente, o dava solo ai caporali, e il resto sono, in questa azienda lavorano comunque in estate 70-80 persone, almeno. Addirittura dava il caffè solo agli italiani o ai caporali? O a voi, ai caporali, a voi, sì, ai caporali, a voi stranieri? Romani. E al resto... Al resto niente? Niente. Quindi a voi stranieri, a voi manovalanza, vi trattavano come bestie? Sì. Senti, tu hai trovato il coraggio di denunciare il tuo datore di lavoro, giusto? Sì, io ho trovato il coraggio, ma non sono tutelata, non mi aiuta nessuno. Sono stata ai carabinieri denunciare che sono stata pure minacciata. Avevo paura per mia figlia, è normale, un genitore. E non mi hanno dato neanche una fotocopia della denuncia. Senti, adesso tu cosa chiedi, Clementina? Io voglio che mi risarcissano. Ho detto solo, io ho chiesto solo le ore che ho lavorato, che cosa mi hanno rubato. Non ho chiesto daune morali o... E sicuramente potrei chiedere se avessi un avvocato o qualcuno che mi aiutasse, ma qua purtroppo non... Ecco, noi approfittiamo per fare un appello, no? Se c'è un avvocato... Sì, disposto a difendere Clementina. Clementina chiede giustamente che gli vengano versati tutti quei contributi, no? Previdenziali, fiscali, che le spettano in quanto lavoratrice, poiché lavorava in nero, purtroppo. Ecco, se c'è in ascolto un avvocato che può aiutare Clementina... ovviamente in maniera gratuita, può scriverci fuoriposto @radio24.it, poi noi provvederemo a metterlo in contatto con Clementina. Clementina, noi ti ringraziamo, ci auguriamo che tutto possa risolversi per il meglio. In fondo mi pare di capire che tu chiedi solo quello che ti spetta, no? Chiedi di essere pagata per le ore che hai lavorato. Sì, sì, certo, niente in più. Clementina, grazie per la tua testimonianza, ti salutiamo. Vi ringrazio io. E in bocca al lupo per tutto. Ciao Clementina, ciao. I fuori posto. Per fortuna per Umberto c'è anche qualcuno che cerca di aiutare e difendere questi lavoratori sfruttati, no? Sì, cerca di difenderli anche se con tantissime difficoltà, perché come ci diceva Francesca e poi dopo Clementina, molti di loro hanno paura di denunciare perché i caporali, i loro sfruttatori, sono lì a pochi passi da loro, no? E ci può spiegare meglio questo fenomeno Roberto Iovino, che è della FLAI CGIL Nazionale, che insieme ai suoi colleghi si occupa di contrastare questo fenomeno e di aiutare i più deboli. Giusto, Roberto? Sì, buongiorno a voi. Benvenuto, benvenuto a Radio 24 e Fuori Posto. Grazie. Sì, come dicevi giustamente, noi mettiamo in campo un'azione di natura sindacale, lo facciamo con le nostre strutture, lo facciamo anche riproponendo uno strumento che è il sindacato di strada. Noi stiamo provando a intercettare i lavoratori nelle campagne attraverso delle unità mobili, sono dei veri e propri camper dove noi diffondiamo del materiale su diritti dei lavoratori stagionali, spesso anche multilingue, proprio per venire incontro ai lavoratori stranieri, e in questi materiali spieghiamo come tutelarsi dal caporalato, che cosa significa lavorare con un contratto, che cosa significa invece lavorare sotto caporale, quali sono i diritti che vengono violati, quanto dura una giornata, certo, di lavoro. E a proposito di caporalato, Roberto, ci puoi spiegare come funziona il meccanismo del caporalato, cioè quanto si mette in tasca il caporale? Circa il 50% di quanto è previsto dal contratto nazionale e provinciale di settore. Faccio un esempio: noi abbiamo dei salari medi che vengono riconosciuti ovviamente in nero dai caporali, che si aggirano tra i 25 e 28 euro al giorno. Per quante ore di lavoro? È per circa 10-12 ore di lavoro. Il contratto prevede la metà delle ore di lavoro, 6 ore e 40, per un corrispettivo molto più alto dovrebbero guadagnare circa 50-55 euro a giornata, quindi parliamo di salari dimezzati, orari di lavoro quasi raddoppiati, evidentemente tutto in nero, senza nessuna norma di tutela contrattuale. A parte il vostro lavoro, no? Ma sarò ignorante io, ma non riesco a capire come mai le forze dell'ordine non riescono ad arginare il fenomeno, no? Soprattutto oggi che è tutto tracciabile. Capisco magari 20-30 anni fa, no? Ma adesso che viviamo nell'era digitale dove tutto è tracciabile, come mai non si riesce a provare con certezza che c'è ancora il lavoro nero, il lavoro sommerso e lo sfruttamento? Perché il settore agricolo vive ancora di norme che sono state concepite in un'era geologica diversa da quella moderna. Io ricordo a voi che il settore agricolo deve rendicontare le assunzioni con un meccanismo trimestrale, mentre tutti gli altri settori lo fanno mensilmente, e che l'assunzione anche dei lavoratori agricoli è un'assunzione nominale che poi va rendicontata durante l'arco dell'anno sulla base delle giornate effettivamente svolte. Questi meccanismi vengono spesso utilizzati come strumenti di elusione della contrattazione e del lavoro pulito, utilizzando invece il lavoro nero. Cioè, per fare un esempio concreto, spesso e volentieri i lavoratori agricoli vengono assunti nominalmente, ma il rendiconto delle giornate che effettivamente svolgono avviene sulla base delle norme vigenti 3 mesi dopo. Questi meccanismi spesso e volentieri, anche nell'epoca del digitale, anche nell'epoca della piena tracciabilità, rischiano di essere dei meccanismi che non garantiscono la trasparenza e la legalità nel mercato del lavoro. A questo si aggiunge il fatto che fino al 2011 il caporalato non era un reato penale, ma si pagava una piccolissima multa, ed è proprio questo il motivo che ci ha posto a chiedere in queste settimane si sta discutendo proprio al Senato di rafforzare la normativa anticaporalato per delle sanzioni più stringenti e più efficaci. E comunque oggi è un reato, questo lo ricordiamo. Ascolta, e queste persone lavorano in condizioni terribili, no? L'episodio dello scorso anno, no? La morte di questa lavoratrice pugliese, rappresenta un fatto isolato oppure accade spesso che questi lavoratori ci rimettano la pelle? Purtroppo il caso di Paola Clemente non è un caso isolato. L'estate scorsa abbiamo visto che diversi braccianti sono deceduti proprio per i ritmi insostenibili nelle campagne di raccolta. Mi piace citare il caso, che è utile tenerne viva la memoria, di un lavoratore rumeno che è morto nelle campagne piemontesi, a Carmagnola, o di Mohamed, un bracciante sudanese che è morto nella provincia di Lecce. Il caso di Paola Clemente ci ha permesso, per la sua drammaticità, di alzare un velo di omertà rispetto a questa situazione che vede diversi braccianti essere vittime dei ritmi insostenibili e dello sfruttamento, ed è proprio nei confronti di queste vittime, dei loro familiari, del sacrificio che molti di loro hanno fatto, che dobbiamo dare una risposta corale come sistema paese per eliminare una vera e propria piaga che è una vergogna per un paese civile. Non capisco perché per ammodernare le regole, no, del sistema agricolo passano così tanti anni, perché il caporalato non è un'invenzione di ieri, no? Sono anni che se ne parla. La domanda che ti voglio fare è: c'è l'interesse di qualcuno perché la condizione di sfruttamento del lavoro resti esattamente quella che è adesso, oggi? Purtroppo sì, sono quegli imprenditori disonesti che fanno il danno non solo dei lavoratori, ma anche di quegli imprenditori che invece le regole le rispettano. C'è una certa parte di imprenditoria che è ancora convinta che, eludendo le regole, si crea più ricchezza. I fatti dimostrano il contrario. Il caporalato non è solo un danno per i lavoratori, è un danno anche e soprattutto per gli imprenditori onesti, e ricordo anche per lo Stato, perché significa molta fiscalità in meno, significa meno contributi ai fini pensionistici. Purtroppo ci sono ancora un pezzo di imprenditoria che considera questo un fattore per reggere la competitività a livello globale, ma non è certo con un modello basato sullo schiavismo che noi possiamo competere in questo scenario di mercato. Roberto, per chi volesse denunciare il proprio sfruttamento, ma ha paura di perdere il proprio posto di lavoro, cosa deve fare? Deve denunciare perché la legge gli dà un regime di tutela speciale. Questo lo fa già adesso con le attuali norme, e lo deve fare facendo riferimento alle strutture sindacali. Può andare sul nostro sito fly.it, dove c'è l'elenco di tutte le sedi. La legge prevede un regime di tutela ai braccianti che denunciano i propri sfruttatori, ma soprattutto prevede già adesso delle pene molto severe per i caporali e anche per le aziende che se ne avvalgono. Quindi non solo c'è la possibilità di punire le aziende, ma c'è anche l'opportunità per chi denuncia di avere in cambio quello che magari gli è stato negato per diversi mesi. Noi ti ringraziamo Roberto, grazie per essere stato qui ospite a Radio 24 e ai Fuoriposto, e noi ci auguriamo che siano sempre più i lavoratori sfruttati a denunciare, no? Sì, purtroppo la piaga è ancora molto presente nel nostro paese, però appena qualcuno inizia a denunciare apre la porta agli altri, e in questo modo si spera che questo fenomeno finalmente soccomba per sempre. E anche voi che ci ascoltate, se volete raccontarci la vostra storia potete scriverci ai Fuoriposto @radio24.it o andare sulla nostra pagina ufficiale Facebook I Fuoriposto, o lasciarci un messaggio allo 0246524182, oppure Filippo, oppure inviarci un SMS o WhatsApp al 349-238-6666. E purtroppo, caro Umberto, devo annunciarti l'ultimo collegamento, l'ultimo appuntamento con Fuori Politica. Per ora, diciamolo, certo. Perché ci fermiamo solo per poco, no? Per goderci i nostri lauti incassi. Esatto, andremo a fare vacanze favolose, no? Ah, sì? Tu dove andrai? E io a Torre del Greco, vicino Napoli. Ah, io alla Dispoli, vicino Roma. Sì, certo, perché l'importante, no, è fare una vacanza tranquilla in un posto, insomma, a buon mercato. E certo, soprattutto che sia a buon mercato per quanto ci riguarda. Un posto dove c'è la gente, no? Esatto. Perché noi siamo tra la gente. Noi amiamo la gente. E non solo noi amiamo la gente, no? Una che è partita dal basso, no? Definita la grillina del web, è Martina Dell'Ombra. Ci sei, Martina? Ciao Martina, dove sei? Ciao, sono in un posto super esclusivo dall'altra parte del mondo. Aridaglie, ma ormai è settembre, dove, ancora stai in vacanza? Ma assolutamente sì, le persone di un certo livello comunque stanno sempre in vacanza, mica solo ad agosto. Ho capito, ma un politico dovrebbe mischiarsi con la gente di basso livello, con il popolo, con le persone che hanno bisogno dei politici come te, no? No, quella è la sorella di Umberto. Aridaglie con mia sorella. Si mischia con la gente, a Ostia, eccetera. E beh, che c'è di male? Ostia comunque è un posto bello, c'è il mare. Ne abbiamo già parlato, Umbe, te prego. Te prego, allora, visto che è la nostra ultima puntata, non farci fare brutte figure. Io ti ho presentato come la grillina del web, quella venuta dal basso. Grillina tua cugina. Vabbè, ma mia cugina, mia sorella, tutta la famiglia ce l'hai. Se uno è grillino, che problema c'è? Che male c'è essere un grillino? No, i grillini non sono politici, purtroppo. I grillini sono persone comuni, quindi non possono essere politici. È quello il bello, sono le persone comuni che adesso entrano in politica. No, ma quale bello? Le persone comuni non possono fare politica. Ma questa vocetta all'improvviso che è un po' strana. Perché sta vocetta? Cosa? Perché questa vocetta? Quale vocetta? La vocetta da paraculetta. Ma non è vero, non è bella questa cosa di paraculetta. Comunque, le vacanze, no? Sì. Sono un diritto di tutti quelli che lavorano, giusto? Sì, beh certo, gli operai, gli schiavi, eccetera. Schiavi. Per fortuna gli schiavi non esistono più. Gli schiavi hanno comunque le vacanze, appunto, mentre invece le persone di un certo livello non è che devono chiedere a qualcuno per andare in viaggio o partire. Comunque, sei l'unica che è ancora in vacanza, ormai le vacanze sono finite per tutti, è settembre. Sì, no? Ma io sto fino ad ottobre, poi me ne vado invece in montagna. Ah, poi ti vai via dal, perché adesso sei al mare? Sì. Fregene? No, lì c'è sempre tua sorella, Umbe. Che ti frega di mia sorella? Sono un posto super esclusivo all'estero, internazionale. Voi finora mi avete sempre chiamato all'estero, lo sapete, vero? Ma lo scopriamo soltanto adesso, all'estero. Quindi avremo speso un sacco di soldi di telefono, di bolletta. Assolutamente sì. Se ce lo dicevi non ti avremmo mai chiamato, porca miseria. Diciamo una cosa, no? Che le differenze, no, uccidono la buona politica. Quindi niente differenze tra ricchi e poveri, tra alti e bassi, tra belli e brutti, giusto? Vabbè, ma è certo, ci sono un sacco di differenze tra ricchi e poveri. Ma no, che differenze ci sono? Siamo tutti uguali. E anche tra alti e bassi, in realtà. Cioè, comunque il mondo è fatto di super differenze. Tipo, quali sono le differenze che per te contano? Allora, vabbè, sicuramente la bellezza è una differenza fondamentale e per esempio ovviamente i ricchi sono sempre più belli dei poveri. Questo lo dici te, non è vero, ci sono anche ricchi brutti, panzoni. No, guardate anche le foto comunque delle star o dei calciatori quando erano poveri, che erano brutti e poi come sono diventati da ricchi, perché ovviamente tu da ricco ti puoi rifare tutto quello che vuoi, ti puoi fare i massaggi, puoi fare le diete, non ti stanchi. Ma che c'entrano i calciatori? Eravamo partiti dalla politica, cioè che ne so, Gattuso, da quando è Gattuso è diventato bello? Sì, ma soprattutto Cristiano Ronaldo, prima quando era un bambino povero era veramente brutto, ma è sempre stato bello, adesso è diventato fico. Ti piacerebbe fidanzarti con Cristiano Ronaldo, eh? No, io punto a gente più di spessore e livello. Tipo? Tipo Donald Trump. Ah, punti in alto. Ti piace sì. Donald Trump? Sì. E cosa ti piace? Cosa ti piace di Donald Trump? E che sarà presidente. Ah, tu dici, perché, cioè, quindi possiamo dirlo, cioè tu fai l'endorsement a Donald Trump? Sì, ho pure fatto una canzone per lui, poi ve la faccio sentire. Ce la puoi sentire in esclusiva qui? Un'anteprima. Ve la farò sentire in esclusiva, assolutamente sì. Comunque, Martina, noi ti ringraziamo, no? Sì, grazie a voi. Ti lasciamo con 30 secondi che tu puoi investire come meglio credi, mi raccomando, di cose sensate. Allora, a tutti quanti gli ascoltatori, mi raccomando, continuate a seguire questi due porelli perché hanno tanto bisogno di prendere uno stipendio. Questo è bello. Secondo, cercate sempre di affrancarvi dalla povertà che vi circonda e quindi cercate sempre di diventare più super ricchi e di governare, o altrimenti accettate le cose che decide chi governa senza fare assolutamente nulla, perché se no rompete le scatole tipo i poveri. Parola di Martina dell'Ombra, ospite fissa dei Fuori Posto. Un grande politico. Un chissino a tutti, ciao! Ciao Martina! Ciao Martina! Ciao, chissini! Umberto. Martina ha chiuso in saggezza, ha detto saggezza. Date un lavoro a sti due di Fuori Posto, a sti due disadattati. E ci ha dato anche gli ultimi due chissini. Eh sì, ma noi ci fermiamo solo per pochissimi minuti, ma torniamo sempre puntuali qui su Radio 24, i Fuori Posto. Vi aspettiamo, I Fuori Posto. No, Umberto, non mi dire, pure l'ultima puntata dobbiamo avere questo. Chiudiamo in bellezza, no? Chiudiamo con il più grande. Chiamatemi il cellulare di Ciruzzo. Pronto? Ciruzzo? Sì, ragazzi, io c'ho da fare qua, Che stai a fare, scusa? Sto organizzando, c'è spettacoli miei in giro, le tournées, quindi non è che... C'è ancora qualcuno che ti chiama? Tournées? Tutti mi chiamano, perché sono più di solo una tournée, più spettacoli su tournée, no? Addirittura? Non vogliamo parlare di economia, esatto. Vogliamo parlare dell'artista. Una volta tanto non parliamo di economia, visto che abbiamo sempre parlato di economia. Vogliamo parlare di questo grande artista e comunque i nostri ascoltatori, Ciruzzo, continuano a chiederci le tue poesie. Ma per caso ne hai una pronta anche per oggi? Sì, facciamo la poesia, dai. Vai. Allora, come si intitola questa poesia? Perché sennò se parliamo delle date parliamo sempre delle cose mie, invece voglio fare una poesia. Bravo. Ci piace. Pronti per la poesia? Scusa, sì. Siccome io vivo un dramma d'amore... Sì? Cioè, vado sul sicuro se dedico questa poesia alla mia ex? È una poesia, diciamo, religiosa, questi qua. Però ci sta pure, va bene. Siamo sicuri che non si incazzi Papa Francesco, no? Sì, lo posso salutare? Ma perché lo conosci? Ciao, Fra. Ma che è l'amico tuo? Certo. Cioè, non solo conosci Padoan, anche Papa Francesco? Va bene, dai, adesso la domenica prossima farà la messa a casa mia. Domenica fa Papa Bergoglio fa la messa. A domicilio. Allora, ragazzi... Stavo volando, posso dire la poesia? Allora, vai. Aspetta che ti sentiamo. Ciruzzo Tozzi in preghiera. Preghiera. Signore, facci stare bene a tutti quanti, mettici la buona parola con i santi. Al mio cugino, facci trovare il motorino, perché da quando se l'hanno rubato sta tutto il giorno intossicato. A Zianita, facci sanare l'unghia incarnita. E a zio Rocco, se puoi, facci passare tutti i dolori. Che profondità. Signore, il posto a Tonino facci trovare, perché se no non si può sposare. Servizio sociale, servizio pubblico. Se ne può andare. Sempre per i cazzi suoi, comunque. E con la tua intercessione fammi trovare una buona occasione. Non so, una macchina di seconda mano per stare senza pensieri. Ma sta scadendo. E devo fare un viaggio lontano. Doveva essere una polizia religiosa. Sempre peggio. A mia sorella Rosetta, facci vincere quel concorso che ha fatto nel mese scorso. Oh, che miseria. Fammi stare bene alla mia cara mammina, se no a me chi mi cucina? Sempre peggio. La febbre a papà non ce la fare pigliare, perché se sta malato non si va a faticare. E per finire, un'altra cosa ti devo dire, signore, a me non mi fare cadere malato, perché di salute io già sto inguaiato. Io sono commosso. Sono senza parole, cioè. Questa era una poesia religiosa, sì. Giusto? Doveva essere una preghiera, una preghiera che puoi usare anche tu, sì. Per la tua fidanzata. Cioè, noi abbiamo ascoltato solo richieste personali. Cioè, io posso adattare anche alla tua, fidanzata. Signore, falla tornare, altrimenti io via e mi butto a mare. È fatta, Umberto, stai sereno, è fatta. Ma scusa, se io volessi ingaggiarti per una serenata... Sì. No, per magari vado... Consulenza, serenata, preghiera o poesia? No, serenata, tutto. Cioè, serenata, quanto mi costi? Ma dipende dove devo andare. Se c'è la trasferta, che è lontano, proprio lontano, lontano, devo mettere anche la benzina, il gas, perché c'è la macchina a gas. Tu c'hai la macchina a gas? Per risparmiare. Sì. Se devo andare vicino a Frosinone... No, è oltre, è vicino Milano, tra Milano... Allora ci vuole un sacco di soldi, ragazzi. Dai, fai un buon prezzo, dai. 200 euro, va bene? 200 euro? Ah, così poco? Vieni via con poco. Vengo col gruppo. Ah, col gruppo? Ah, 200 sì. euro col gruppo? E quanti siete al gruppo? Quanti siete? Chi siete? 12. Quanti siete? 12. 12. Mazzanana. Ma potrebbe venire anche il ministro? Beh, se viene il ministro, qualche cosa in più, eh. Ah, perché costa? Cioè perché quanto costa il ministro? 220 euro. Quindi tu dai 20 euro al ministro Padoan? Eh sì, perché forse ci guida lui. Mi fa da runner, mi fa. Pesce, quei lavori, ma è lì con te adesso il ministro? No, sta pulendo un po' la cucina. Ma siccome è il nostro ultimo collegamento, no? Sì. Ce lo puoi passare un attimo al volo? Un ultimo saluto al ministro per Carlo Padoan. No, io veramente l'ho imbavagliato perché. Ma come è imbavagliato? No, perché si mette a cantare le canzoni. Io mi avevo amato un mio, ma adesso queste canzoni qua del nord. Vabbè, sono belle canzoni, scusa. Non ma no, è suonato, volevo non sentirlo. Ci ho messo il bavaglio, ci ho messo la fazzoletta sul musso. Ma possiamo salutarlo perché è l'ultimo collegamento che facciamo con te. Vabbè, adesso vieni qua, vieni. Dai, chiamalo un attimo al volo. Ministro. Ok, faccio salutare. Ma ministro, è veramente imbavagliato? Sì, ma qui... Ma scusa, levagli il bavaglio, no? Un attimo, te lo do con 30 secondi, dai. Ministro. Ringrazio il fuori posto. Che hanno dato la possibilità a Ciruccio Tozzi. Bello. Ma voglio ringraziare anche Ciruccio Tozzi che ha dato la possibilità a Fuori Posto e a Radio 24 di crescere sempre di più. Ecco, grazie. Che belle parole, ministro. Noi la ringraziamo. Grazie, noi siamo commossi. Grazie anche a Ciruccio Tozzi di avermi dato la possibilità a me, personalmente, sì. di conoscere un po' la città, questa meravigliosa città, anche la città di Napoli. Vedi. La città di e anche Mondragone. Mondragone. Meglio Napoli o Mondragone? Ma sa, tra lui e lei scegliere non saprei, sono due città bellissime, due realtà meravigliose. Direi che le città più belle del mondo sono Napoli, Mondragone e Milano. Ma ministro, Mondragone torna... sta in mezzo. Ma rimane con Ciruccio o torna a lavorare? Torna a fare il suo mestiere di ministro? Sarei rimasto qui con tantissimo piacere, ma Ciruccio ha detto che ha da fare, che non può tenermi più con lui. E pertanto io con grande rammarico ma vado via, ecco, non perché deve tornare ai suoi doveri, perché Ciruccio la caccia via. Sì, io farei volentieri almeno di tutte le cose che ho da fare per stare un po' più con lui, ma purtroppo, come dire, lui ha da fare, è impegnato in tante cose, ecco, non, lasciamolo stare questo e ringraziamolo. Grazie Ciruccio, grazie mille. Ministro, grazie ancora per la sua presenza, molto autorevole. Adesso basta, vai su, vai a lavorare, su, basta. Vabbè, Ciruccio, fai una cosa, ti diamo 30 secondi e investili come vuoi, dai. Sì, ragazzi, io non ho parole veramente, mi avete scocciato un po' tutti i giorni queste cose a radio, qua con la Radio 24, però ho fatto con piacere perché ho trovato veramente degli amici veri in questi giorni. Grazie. Ho trovato degli amici veri perché mentre facevo il collegamento con voi, la gente camminava per strada e ha fatto amicizia con me. Noi c'eravamo in luce. Vabbè, ma spendi una parola buona per me, Filippo, no? Un grande direttore volevo salutare. Ah, ecco, prego. Che lecchino. Volevo salutare il direttore del ristorante che mi ha ospitato in questi giorni. Ah no, il direttore della radio. Va bene, anche lui, va. Saluto anche il direttore della radio. Vabbè, gli fa un piacere. Grande 24. Va bene, grazie Ciruccio. Ciao Ciruccio. Buona estate, Umberto. Quella, come si chiama quell'altro? Filippo. Buona estate Umberto e Filippo, i due carissimi amici da sempre. Ecco, si vede. Molto spontaneo questo saluto, va bene. Ciruccio, speriamo mai più comunque, grazie. Sai Umberto, quasi sono dispiaciuto che pure questo io. Era l'ultimo collegamento con il nostro grande economista Ciruccio Tozzi. Ti posso dire una cosa? A volte ritornano. Oddio, veramente. A volte ritornano, no? E anche noi, a volte, chissà mai, hai visto mai che potremmo ritornare. Speriamo di ritornare, perché questa, Umberto, ahimè, è la nostra ultima puntata dei Fuori Posto. Per ora, l'ultima puntata dei Fuori Posto, ma continuate a scriverci e a seguirci, no? Perché i fuori posto si fermano solo per pochissimo, no? Ma ritorneranno prestissimo. Esatto, quindi noi speriamo di ricollegarci con voi. Mandateci mail, inondate questa radio di messaggi dicendo: vogliamo Filippo Roma e Umberto Lezio con i fuori posto. E ricordiamo, ringraziamo tutti i fuori posto, no? Che sono intervenuti nel nostro programma. Una galleria di fuori posto, veramente. Un mondo di fuori posto. Chi ricordiamo? Ciruzzo Tozzi, Martina dell'Ombra. L'Ombra, ma anche, che ne so, i venditori del pane di strada, no? Il pane della camorra. Il famoso truffatore mini dotato, te lo ricordi? Luciana, no? Giornalista minacciata da un clan efferato, no? E ricordiamo anche Salvatore, il parrucchiere di Napoli, che ha avuto il coraggio di denunciare coloro che gli chiedevano il pizzo. E ricordiamo anche, no? Non ultimo, il capo dei vampiri italiani. Come no, fantastico. Comunque, caro Filippo, i fuori posto si fermano solo per qualche giorno perché dobbiamo riposarci anche noi, no? Dobbiamo riposarci, ma torneremo presto, e speriamo, ovviamente. Ringraziamo anche Radio 24, no? Sì, soprattutto ringraziamo il direttore di Radio 24. Sì, sì. Ringraziamo Andrea, Silvi, Max, Alessandro, tutti quelli che ci hanno supportato in questa avventura. Che ci hanno supportato, soprattutto. Voi continuate a inviarci le vostre storie, i vostri racconti, a insultare Filippo, insomma, o a fare qualsiasi altra cosa. Scriveteci ai fuoriposto, @radio24.it. Oppure lasciateci un messaggio in segreteria telefonica allo 02 46 52 41 82 e non vi dimenticate del nostro profilo Facebook, I Fuori Posto. Un grande saluto da Filippo Roma e Umberto Alezio. A presto! Ciao!